E in pieno svolgimento la conferenza governativa che chiude le giornate della cooperazione italiana promosse dalla Presidenza del Consiglio, si svolge in una sala del Campidoglio e sono presenti varie persone che testimoniano la volontà, l'impegno italiano nella cooperazione allo sviluppo all'estero, ma è presente in sala anche un gruppo di esponenti della campagna Sbilanciamoci, in aperta polemica con le iniziative governative. Negli ultimi giorni quelli di Sbilanciamoci hanno organizzato una serie di avvenimenti alternativi e oggi sono venuti in Campidoglio proprio perché la loro presenza sia un segno di protesta. All'ingresso degli esponenti di Sbilanciamoci in sala il direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri, Diodato, ha salutato con gentilezza e con benevolenza l'ingresso dei rappresentanti di Sbilanciamoci e poi li ha invitati a parlare, ha dato la parola a Giulio Marcon che ha esordito parlando di situazione drammatica delle politiche pubbliche sulla cooperazione allo sviluppo in Italia, ribadendo il fatto che il governo ha fatto tante promesse anche in sede internazionale e non le ha poi mai rispettate, che il governo stanzia pochi soldi per la cooperazione allo sviluppo e stanzia invece tanti soldi per quanto riguarda le spese militari. E proprio insomma l'intervento di Giulio Marcon si è poi concluso con la presentazione e la consegna alla platea e anche agli organizzatori di queste giornate per la cooperazione allo sviluppo organizzate dal Ministero degli Esteri, dalla Presidenza del Consiglio, ha consegnato loro un libro bianco sulla cooperazione allo sviluppo, nel quale sono contenute 10 domande cruciali, 10 domande simboliche alle quali Marcon ha chiesto di dare una risposta concreta. Alcune di queste domande sono il perché gli impegni internazionali non sono rispettati dal governo italiano, perché i tagli in finanziaria alla cooperazione allo sviluppo, perché i tagli alla lotta all'AIDS e perché non viene rispettato il protocollo di Kyoto o perché le spese militari superano, sono il doppio delle spese per la cooperazione allo sviluppo. Giulio Marcon ha poi fatto un richiamo alle ultime dichiarazioni per quanto riguarda l'embargo in Cina, definendo un'offesa il fatto che il governo italiano si adoperi tanto per togliere l'embargo a una dittatura che ha ucciso e massacrato dei giovani studenti che protestavano in piazza riferendosi ai fatti di Tiananmen, e dicendo appunto che l'Italia, come tutti coloro che lavorano nel campo della cooperazione allo sviluppo, hanno bisogno di un altro tipo di intervento, di un altro tipo di aiuto per poter davvero operare nel mondo. Per Amisnet, Sonia Greco.